Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sciopero dei dipendenti del Burlo, presidio davanti all'ingresso principale dell'istituto, motivo dell'astensione e l'assenza di garanzie sulla copertura delle risorse mancanti. Il maltempo di ieri spazza gran parte delle mucillagini, ma il problema persiste per il settore della pesca e i prezzi aumentano. Scontro tra Confcommercio e Comune di Udine, sotto accusa l'ordinanza sulla vendita di alcolici da sport dopo la tragica aggressione costata la vita a Shinpei Tominaga. Ritardi, maltempo, carenza di personale, le ripercussioni sui voli a Trieste, a Trieste Airport, che segna un incremento dei passeggeri del 40% da gennaio a oggi. A Pordenone il primo centro estivo per anziani, 30 partecipanti del progetto gratuito che vuole venire incontro alle necessità delle famiglie. Compagnie dalla Cina, dalla Galizia, dal Burkina Faso, presentato il cartellone della nona edizione del Summer Academy Festival dell'Accademia Nico Pepe. Ancora una cordiale buona giornata da parte di Daniele Lettige e da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. I sindacati UIL, FPL e NURSIND hanno convocato per oggi uno sciopero dei dipendenti dell'Istituto Burlo di Trieste. L'astensione dal lavoro, cui si è affiancato un presidio davanti all'ingresso, per la prima volta viene effettuata anche in modalità virtuale. Non arretreremo di un passo finché non avremo risposte concrete da parte della Regione. A prometterlo sono le sigle sindacali UIL, FPL e NURSIND che questa mattina sono scese in sciopero all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste, considerato fiore all'occhiello della sanità regionale. Tra le ragioni della mobilitazione, l'accordo ponte sulle maggiorazioni delle indennità che la direzione del Burlo ha sottoscritto con le altre sigle sindacali FPCGL, CISL, FP e FIALS, una mobilitazione quindi quella di oggi che tradisce anche forti attriti all'interno dello stesso fronte dei lavoratori. Quello che ci porta allo sciopero, hanno scritto UIL, FPL e NURSIND regionali in un comunicato congiunto, è la mancata garanzia sulla copertura di 381.000 euro tolti a tutti i dipendenti del Burlo Garofolo con la perequazione delle ex RAR, le risorse aggiuntive regionali. Inoltre, continuano le due sigle sindacali, i richiami in servizio non saranno più pagati da bilancio ma con i fondi di tutti i dipendenti e questo comporterà un'ulteriore perdita di quasi 100.000 euro per i lavoratori, denunciano. Alta l'adesione alla mobilitazione, secondo i sindacati, circa il 70% dei lavoratori e per la prima volta partecipano anche i cittadini grazie a un'adesione online tramite QR code per manifestare vicinanza alle rivendicazioni sindacali. A stamani circa 2.500 cittadini e cittadine avevano già espresso solidarietà verso lo sciopero in questo modo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il maltempo di ieri, con il vento e la pioggia, ha migliorato la situazione delle mucillagini, tornate domenica a riempire il Golfo di Trieste. La gran parte sono tornate al largo, ma nei punti più interni ne rimangono ancora. Intanto, nelle pescherie cittadine, i prezzi crescono. Pescatori preoccupati, pescherie con carenza di pesce nostrano e prezzi alle stelle e la scienza che continua a interrogarsi su quanto durerà ancora il fenomeno. Bora e pioggia rispetto a ieri hanno ridotto la quantità di mucillagini nel golfo, spingendole nuovamente al largo, ma la situazione rimane in divenire. Ieri, prima del maltempo, una lunga scia grigia sotto costa da Barcola fino a Miramare aveva riproposto il problema. Stamani l'acqua era limpida ma con chiazze di dimensioni medie, mentre rimaneva sporca come nelle settimane scorse nei porticcioli, specie in quello di Grignano, che è uno dei pochi protetti dalla bora. Le mucillagini, secondo Maurizio Spoto, responsabile dell'area marina protetta di Miramare, rimangono in profondità e a largo e sono destinate a rimanere nel golfo ancora qualche settimana, quando naturalmente dovrebbero scomparire. Intanto però sono un problema non soltanto per i bagnanti, ma anche per il mercato del pesce fresco. Nelle pescherie orate, seppie e sardoni scarseggiano e così i prezzi sono cresciuti anche del 30% rispetto al medesimo periodo del 2023. I pescatori del resto escono di meno, i pescherecci restano in banchina, ci spiega Guido Dozz, presidente dell'AGCI Pesca, che rivela come le mucillagini, seppur in quantità minori, siano presenti da qualche giorno sulla costa veneta e addirittura nel nord della Romagna. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo da sereno a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 27 gradi, a Pordenone anche 27 gradi, a Gorizia 26, a Udine 25, a Tolmezzo 24, a Tarvisio 19 gradi, a Sappada 17, a Piancavallo 14, sul Monte Lussari 18, a Grado e Lignano 26 gradi, la temperatura del mare è di 26 gradi. Le previsioni per le prossime ore: è atteso un generale aumento della nuvolosità con rovesci sparsi e isolati temporali, più probabili tra le prealpi e la pianura. Si lavora alacremente in Piazza Unità d'Italia a Trieste in vista della visita di Papa Francesco. Quasi completato il gigantesco palco, che è stato rapidamente costruito, è largo 60 metri per 14 di altezza e circondato da 6 alte torri. Ogni giorno è al lavoro almeno una decina di operai che con caschetto e imbragati si arrampicano sulla struttura in metallo di tubi e numerosi sono i mezzi utilizzati. Circa 8.000 i posti a sedere che saranno sistemati in piazza sono già stati tutti assegnati, dai quali si potrà seguire la messa celebrata dal Papa e l'Angelus. La 50ª settimana sociale dei cattolici si inaugurerà domani con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà chiusa appunto dal Pontefice domenica 7 luglio. Ma non c'è solo Piazza Unità, tutta la città di Trieste è coinvolta nella settimana sociale dei cattolici con stand, gazebo e palchi montati per ospitare incontri ed eventi collaterali. Il simbolo più evidente è il grande palco in Piazza Unità, la cui costruzione è quasi terminata. Da qui Papa Francesco, per la prima volta in città, celebrerà domenica 7 luglio la messa che concluderà la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Ma in tutto il centro di Trieste si trovano stand e file di gazebo accompagnati da manifesti e cartelli. Rappresentano i cosiddetti villaggi delle buone pratiche, che apriranno nel pomeriggio di mercoledì. Radunano rappresentanti delle associazioni del terzo settore. Per loro, ci dice un volontario della comunità di Sant'Egidio, l'unico stand già pronto in Piazza della Borsa, la settimana sociale è un'occasione fondamentale di incontro e rappresenta anche un certo impegno. Saranno diversi ad alternarsi per coprire i turni, dal momento che gli stand saranno aperti per tutto il giorno. Ma per Trieste la settimana sociale significa anche piazze della democrazia. Sono gli incontri e i dibattiti aperti alla cittadinanza su temi di vario genere che si terranno in luoghi della città, e i palchi si vedono già, come in Piazza Ortis, dove giovedì 4 si parlerà di sport. Intanto è in corso in prefettura la riunione per definire gli ultimi dettagli in vista di domani, quando la città ospiterà il presidente Mattarella, che aprirà la settimana sociale dei cattolici. Trieste, Vario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Caos voli in Europa. Andiamo all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, coinvolto come molti altri scali dai ritardi che gli aerei hanno accumulato nell'ultima settimana di giugno. C'è anche una cancellazione, quella del volo da Milano di questa mattina. Maltempo e carenze di personale nei principali hub europei hanno inciso pesantemente sui voli nei cieli d'Europa. A farne le spese anche l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. I voli da Londra, Francoforte e Roma, quelli che hanno fatto registrare i maggiori ritardi a Ronchi. Ci sono stati ritardi anche per i voli in partenza. I disagi sono dovuti a diversi fattori, ci spiega l'AD di Trieste Airport Marco Consalvo. Dai fenomeni meteo estremi, l'alta stagione turistica e per alcuni hub aeroportuali più importanti le carenze di personale. Basta un errore di programmazione o una forte perturbazione ad innescare l'effetto domino. Il volo ITA Airways di ieri sera è stato dirottato su Venezia. La stessa tratta ha subito ritardi durante il weekend, forti disagi anche per la tratta gestita da Air Dolomiti in partenza da Francoforte, il più grande snodo aereo tedesco. Cancellato il volo da Milano di questa mattina. I cieli in questo periodo sono saturi, tra rotte nuove e aumento delle tratte in una singola giornata per aeromobile il rischio ritardi è altissimo. Da inizio anno i ritardi dei voli europei sono cresciuti del 153%, ma Consalvo ribadisce la generale puntualità dei voli in arrivo o in partenza da Ronchi dei due principali vettori, ITA Airways e Ryanair. Al di là dei disagi estivi causati dal caos generale dei cieli europei, i numeri di Trieste Airport, sottolinea Consalvo, segnano un incremento dei passeggeri del 40% da gennaio a oggi. 40 sono anche le nuove assunzioni nel terminal, che potrebbero crescere con la programmazione per il prossimo anno. Andrea Marucic, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso andiamo a Udine, dove c'è molta tensione tra Confcommercio e la giunta comunale dopo gli annunciati provvedimenti sulla vendita di alcolici da asporto in seguito all'aggressione costata la vita all'imprenditore giapponese Tominaga. Il comune non fa marcia indietro e contrattacca. scontro totale tra Confcommercio e Comune di Udine. L'associazione di categoria annuncia l'uscita da tutte le forme di collaborazione con Palazzo Daronco previste per la Notte Bianca tra venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024. Salteranno 4 eventi musicali tra concerti e DJ set, ancora non annunciati, ma che i pubblici esercizi avrebbero dovuto finanziare per quella sera. L'idea era di accompagnare con ritmi e armonie le persone alla mezzanotte del 6 luglio, quando sarebbe scattata l'ora dei saldi del primo acquisto scontato. Non solo, dalla riunione di ieri degli aderenti a Confcommercio è stata decisa anche la serata dei locali pubblici dalle 18 di lunedì 8 luglio, proprio nel giorno in cui è in programma un corteo silenzioso per Shinpei Tominaga da piazzale 26 luglio al municipio e il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza chiesto dall'opposizione. Critici pubblici esercenti sull'ordinanza che prevede la vendita di alcolici da sporto a partire dalle 21 e dalle 18 in Borgo Stazione e la loro somministrazione da l'una di notte. Non possiamo essere considerati parte del problema, afferma il responsabile di categoria Giovanni Pigani. Al contrario, siamo una delle componenti che può contribuire a contenerlo nel nostro ruolo di sentinella sul territorio. Chiesto il ritiro immediato della misura. Convocata invece immediatamente una conferenza stampa di risposta da parte del sindaco De Toni e dell'assessore Venanzi. Riteniamo che la sicurezza sia la cosa più importante da tutelare, prima ancora delle attività economiche commerciali, ha ribattuto il primo cittadino. L'ordinanza non è stata presa a cuore leggero a fronte della morte tragica di Tomina e ci è stato chiesto di adottarla dal prefetto durante il comitato ordine pubblico. Non solo, gli stessi autori dell'aggressione dichiarano che erano annebbiati dall'alcol. Dire che non c'è connessione è una tesi irricevibile. Le parole di De Toni. Rigettiamo ogni tipo di speculazione da parte della categoria. Gli ha fatto eco Alessandro Venanzi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un uomo ubriaco ha percorso oltre 10 km in contromano alla guida di un'auto lungo l'autostrada A23 tra Udine Nord e Udine Sud, prima di essere fermata dalla polstrada, che ha così evitato possibili tragedie. Il fatto è avvenuto domenica mattina, poco dopo le 6, quando il centro operativo della Polizia Stradale di Udine, che coordina i servizi sulle grandi arterie autostradali della regione, è giunta la prima segnalazione dai sensori di sicurezza ubicati lungo la rete e dalle telefonate degli utenti in transito. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l'accaduto. Lunghi minuti di terrore percorsi sulla corsia di sorpasso, sfiorando alcuni veicoli, fino a quando l'intervento della pattuglia della Polizia Stradale di Amaro, nel territorio di Treppo Grande, ha fermato in sicurezza la corsa della Smart nei pressi dell'area di parcheggio Cormor Ovest. In precedenza, lungo il tragitto, il veicolo aveva cagionato un piccolo incidente con solo lievi danni alle cose. Al momento del controllo, il conducente, un italiano di 32 anni in stato confusionale, è risultato positivo alla prova etilometrica, che ha fatto registrare valori di oltre 4 volte il limite consentito. Per lui è scattato l'immediato ritiro della patente, la sanzione amministrativa fino a oltre 8.000 euro per aver proceduto contromano, il fermo dell'auto per 3 mesi e la segnalazione alla procura di Udine per la guida in stato di ebbrezza. A Pordenone è stato organizzato il primo centro estivo per anziani. 30 i partecipanti al progetto gratuito della cooperativa sociale Fenis per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà nella cura dei propri cari nei mesi più caldi. Un centro estivo per anziane e anziani, 30 persone che fino al 5 luglio in via Oberdan a Pordenone, negli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Baschiera Tallon, partecipano gratuitamente al progetto della cooperativa Foenis con il sostegno di Fondazione Friuli. Samantha Turchet, responsabile per la cooperativa. Il GRES dell'anziano ha una durata di 3 settimane, attualmente sono iscritti 30 anziani e 6 giovani volontari come ragazzi. Durante queste settimane sono state organizzate delle attività come Qigong, musicoterapia, pet therapy, yoga e degli incontri informativi sull'abitare condiviso. Quindi è una nuova esperienza, è un nuovo progetto innovativo che ha dato il suo risultato positivo, perché gli anziani sono contentissimi, sono dispiaciuti che con venerdì terminerà questo progetto e ci hanno già chiesto di riproporlo. Com'è andata questa esperienza? Meravigliosamente, è stata un'iniziativa fantastica, originale, cioè ha messo insieme le diverse età, i giovani che hanno interagito con noi anziani, a cominciare da me, cioè ci ha resi freschi, ci ha resi gioiosi in quel momento, abbiamo potuto esprimere la gioia, mettere da parte la solitudine qualora ci fosse. Bellissima, un'iniziativa da elogiare. Che cosa le è piaciuta di questa esperienza? Mi è piaciuta l'organizzazione, la comunità e poi ci muoviamo, il nostro corpo. Io ho bisogno di stare con la gente e anche di fare ginnastica perché l'ho sempre fatta. Ti piacerebbe rifarla un'esperienza così? Spero che continui. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato presentato poco fa a Udine il cartellone della nona edizione di SAFEST, il Summer Academy Festival 2024 dell'Accademia Nico Pepe, che accoglierà compagnie dalla Cina, dalla Galizia, dal Burkina Faso e osservatori dal Congo, con ospiti anche da Regno Unito, Stati Uniti e Germania. Ma sentiamo di più dalla responsabile organizzativa dell'Accademia Nico Pepe, Diana Barillari. Il filo rosso è il fuoco della passione. SAFEST è giunto alla nona edizione ed è un festival di teatro che chiama a raccolta Udine scuole di tutto il mondo legate a una rete dell'IT UNESCO della quale la Nico Pepe fa parte da qualche anno. Quanti sono i partecipanti al festival di quest'anno? Allora, i partecipanti vengono da Shanghai, è la grande Shanghai Theater Academy, per dare solo un'idea, a 3.000 iscritti e a 17 facoltà diverse. È una pietra miliare della formazione del teatro di tradizione cinese, ma anche cinematografica, video, design, insomma un centro di creatività. Poi abbiamo una scuola superiore di arte drammatica dal Burkina Faso, una delle pochissime esistenti in Africa, e poi abbiamo un'altra scuola superiore d'arte drammatica che viene dalla Galizia, che è una regione della Spagna molto fiera delle sue tradizioni linguistiche. Infatti il galiziano è una delle lingue minoritarie, proprio come il friulano, lingue minoritarie europee. Ci puoi indicare un appuntamento davvero imperdibile? Tra i docenti di quest'anno abbiamo Paul Goodwin, che è un docente e un attore, un regista veramente assolutamente british, che da anni collabora con noi per lavorare su Shakespeare direttamente in lingua inglese e che ci porta il suo Macbeth solo, che è nato qui a Udine due edizioni fa di SAFEST e che l'anno scorso a New York ha vinto un primo premio a un concorso di monologhi. Tra le persone che incontreranno in forma privata Papa Francesco domenica mattina al Generali Convention Center ci saranno anche due sorelline palestinesi venute via da Gaza e la loro mamma di 20 anni. Sono la piccola Maya, che in realtà è nata a Trieste il 1 maggio scorso, praticamente appena arrivata in città, e la sua sorellina di 4 anni affetta da una gravissima patologia. E le tre sono giunte in città con un volo umanitario della ONG Save a Child dell'inglese Sally Becker, parte di un gruppo di 21 persone complessivamente tra bimbi e parenti che erano in cura in ospedali al Cairo in Egitto e che sono stati accolti in Italia e che vengono curati all'ospedale pediatrico Burlo di Trieste. Ad accompagnare le due bambine e la loro madre saranno volontari della comunità di Sant'Egidio. La notizia si è presa a margine di Nessun Dorma, la serata di beneficenza, ieri al MIB di Trieste. Il pontefice incontrerà in forma privata anche 50 tra docenti e studenti dell'Università Giuliana, che celebra i 100 anni, i rappresentanti di tutte le confessioni di Trieste, 50 migranti e 50 disabili. E sempre Papa Francesco ha scritto ai donatori di sangue della FDS di Brugnera San Cassiano per ringraziarli del dono ricevuto in occasione del viaggio che a maggio avevano compiuto a Roma per incontrarlo. La lettera è stata inviata dal Vaticano il 5 giugno nella parrocchia di Santi Giacomo Apostolo e Nicola Vescovo di Brugnera ed è stata ricevuta nei giorni scorsi dal parroco Don Michele Favret. Il 29 maggio il sacerdote faceva parte della comitiva di 45 persone che dal Friuli erano scese a Roma per partecipare all'udienza generale in Piazza San Pietro. Il presidente della sezione AFDS, Montagnier, avrebbe dovuto consegnare di persona al Santo Padre la statua del donatore, ma all'ultimo la scaletta degli incontri è cambiata per non affaticare troppo il pontefice. Lasciata Piazza San Pietro, però, un incontro fortuito con il cardinale Beniamino Stella a Castel Sant'Angelo aveva fatto sì che quel dono giungesse a destinazione direttamente nelle mani del pontefice, che ha infine risposto. Chiudiamo con lo sport, basket, si conclude l'esperienza di Marco Carretto sulla panchina della Pallacanestro Trieste, uno dei tre assistenti allenatori di coach Christian termina l'avventura in biancorosso, lasciando in tutti i componenti della società uno splendido ricordo come persona e come grande professionista, come riporta una nota della società sportiva. L'assistente allenatore parte per avvicinarsi alla sua famiglia a Bologna, coach Christian parla di grande gratitudine come allenatore esordiente in Europa. Non posso esprimere quanto Marco mi abbia aiutato in questa stagione. I risultati ottenuti quest'anno non sarebbero stati possibili senza il suo impegno. E con il basket è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Carlo Morello. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.